Friuli nel mondo, 177esima trasmissione dedicata agli emigrati. Più di 3.000 le villotte friulane, patrimonio d'una gente che le canta in coro, esempio tipico di polifonia popolare. Rigide nella forma, quattro ottonari che svolgono un tema completo. Rustici fiori della fantasia che si ispirano all'amore, lieto, triste, scherzoso, disperato, ma soprattutto si richiamano alla nostalgia e alla speranza di un popolo saggio che nei secoli ha saputo affrontare con virile dignità avvenimenti per lo più pieni di sofferenze, di rinunce e di esemplare duro lavoro. Con pochi mezzi, quindi, la villotta esprime una grande spiritualità, spesso maturata sui duri giacigli stranieri. Il coro Jacopo Tomadini di Udine, diretto da Mario De Marco, esegue ora Une volte lis bellezis, Cebielis maninis, Cunchei voi color di rose, Luce fuarfis, O tu donimi ninine, No ti vessi o mai vidute, Ti riguardis tu ninine, O durmiso o pur veglaiso, Duci clas di che murae, Cunt un floc di sede verde, Se sentisa di bambine. Oh. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.